storia del complotto universale. Che cos'è? È un'impressione? È una sensazione? Sì, di solito comincia così. Il sospetto di non essere mai da soli, però nel senso peggiore del termine, mai soli, ci spiano, conoscono tutte le nostre mosse. Siamo pedine nelle loro mani, siamo privati delle nostre volontà, non siamo più uomini e non ce ne siamo accorti. Dovunque andiamo, loro lo sanno. L'avete letto, no? Sui giornali, faccio un banco, ma dentro in un negozio dove c'è un sistema a circuito chiuso, è fatta. Hai voglia di dire, domani no, io non ero lì, no, ero dall'altra parte della città, no, no. Io posso essere condannato per un delitto che non ho commesso a causa di un videotape messo lì a tutelare l'incasso del negozio. Ed ecco allora spuntare la legge sulla privacy, ve la ricordate? Stefano Rodotà, il garante, ve lo ricordate? Una legge varata nel 1995. Che cos'è questa legge? Vediamo un po'. Una giusta e doverosa iniziativa, secondo i più. È veramente molto, molto, forse troppo politically correct, ma a me questa legge invece ha sempre inquietato, perché presuppone e ribadisce un antichissimo pensiero: ci sono complotti, dobbiamo difendervi, vi difendiamo noi, lo Stato, Rodotà. Oddio, io mi sento vittima di un complotto, un altro complotto ai miei danni. L'uso dei dati personali, cioè come mi chiamo, quando e dove sono nato, sì, te li posso dire, no, zitto, dice la legge sulla privacy, dice Rodotà. Questi dati personali possono ritorcersi contro di te, potrebbero essere usati da qualche malintenzionato. Di nuovo i complotti. Nel 1995 era forte il senso di fine millennio e le ombre si allungavano sugli stati, e questo clima di terrore che esiste grazie anche alla legge sulla privacy mi spinge a chiedermi quando e dove, perché è nata l'idea, il sospetto di complotti, anzi per la precisione complotto, perché quello che tutti noi temiamo è che ci sia un unico grande complotto che attraversa tutte le epoche e tutti i paesi e che trasversalmente di potere in potere ha manovrato tutti i cittadini di questo pianeta da sempre e per sempre, da quando cioè è stato inventato il potere, sulla cui nascita noi ne sappiamo quanto l'uovo e la gallina. Questo complotto sta manovrando anche me, anche noi, in questo preciso momento. Radio Onda Rossa, una mano sul cuore, ce la stanno facendo fare perché gli fa comodo farci credere che siamo liberi. Questa è la verità. Dunque, vediamo un po'. Il sospetto che il mondo sia un garbuglio, un groviglio, un buglione indefinibile viene probabilmente dal fatto che i primi uomini che hanno incontrato altri uomini non hanno incontrato sul loro cammino neanche un Dio tangibile. Questo è il mio pensiero. L'assenza di dei in carne ed ossa, parlanti, veglianti, realmente amici, protettivi e solidali, ha portato il genere umano molto presto a credere di averlo preso pesantemente in quel posto. Qual è il senso del tutto? Si chiedevano alcuni filosofi, no? Nelle agorà. Qualcuno nell'ombra cominciava a rispondere per loro. Beh, se non lo vediamo, il senso, cioè se non capiamo perché siamo qui, è perché forse qualcuno ce lo sta nascondendo, questo senso. E ben presto spuntano accanto alle religioni e alle filosofie i misteri, i culti segreti, notturni, Eleusi, Orfeo, Dioniso, le eresie, e poi non sono altro che un altro modo di vedere le cose rispetto alla linea dominante, no? Roma verso la fine dell'impero era piena di atei, miscredenti che fingevano di credere ancora a quei pupazzetti, Giove, Giunone, Mercurio, compagnia bella. Roma era zeppa di culti misteriosofici, segreti. Avete mai sentito parlare di Mitra, dio orientale che per inciso era nato il 24 dicembre da una vergine destinato a morire a 33 anni? Andiamo! E anche sulla preistoria della Chiesa, i Vangeli apocrifi, i rotoli del Mar Morto, le leggende sul matrimonio di Cristo che in realtà era andato con Maddalena. Vabbè, se... Ma allora che c'entra Cristo? C'entra perché per loro non c'è nessuna differenza tra religione, Stato e politica. Su Cristo si addensano molti misteri e viene da pensare che tutto quello che sappiamo non risponda a verità. Infatti, per esempio, non si sa dove era Cristo dai 10 ai 32 anni. Alcuni dicono in India, a imparare tecniche yoga per fermare il cuore e fingere di morire. Un viaggio che secoli prima aveva compiuto, sembra, Pitagora, che era andato a conoscere Shakyamuni, cioè Buddha in persona. Cioè, scusate, mi sto perdendo, ma invece la lezione in uso su Cristo era un'altra. E la Chiesa prima dell'Inquisizione la propugnò attraverso i Cavalieri Templari. Chi sono i Cavalieri Templari? Sono arrivato al pendolo di Foucault di Umberto Eco. L'avete letto? Ve lo racconto con le parole dell'autore, dalla controcopertina dell'edizione originale. Tre aspiranti scrittori si divertono ad immaginare un complotto che stia dietro tutta la storia del mondo, ma qualcuno li prende sul serio. Ora, per anni, tutte le volte che andavo a Milano, a Bologna, io cercavo di avvicinare questo Umberto per chiedergli se lui ne sapeva qualcosa davvero di questo complotto, però non me lo facevano avvicinare. Una volta stava al DAMS, un'altra volta a una conferenza sui fumetti, un'altra era un ritiro di semiologi ungheresi. Che cos'è questo complotto? È il Graal? Che cos'è? Un'arma, un segno di potenza, uno strumento? Ma com'è fatto e che potere esercita? È vero che i nazisti lo cercavano, sì, come nei predatori dell'arca perduta. Le voci che sono arrivate a me sono diverse. Il complotto, che cosa c'è sotto? Le congiure alchemiche del marchese Palombara, di Cristina di Svezia? D'altronde la porta magica di Piazza Vittorio, la conoscete? Sta a mezz'ora da qui, se volete potete esaminarla anche voi. Un buio angolo della piazza e non è stata ancora decifrata. Che cosa significano i suoi simboli? La pietra filosofale? Perché ancora oggi a Piazza Vittorio e nei dintorni pullulano centri esoterici, neoplatonici? Ma questo è connesso col fatto che hanno tolto il mercato ortofrutticolo? Sono stati loro a farlo levare? È stata la massoneria, la P2, la P3? La stessa mente si cela dietro tutti i misteri d'Italia e di tutto il mondo. La stessa mente che probabilmente in questi minuti, in queste ore, sta telefonando a, come si chiama quello con la parrucca, Trump, visto che lui è di poco in testa nei sondaggi, e deve avergli detto: guarda che è tutto finto, siamo noi a decidere chi è l'uomo più potente del mondo, non certo una minoranza di elettori distratti. Ma chi siete voi? Chiederà il povero Trump. Ma noi, da sempre gli stessi, noi, quelli di Babilonia, noi, quelli di Galileo, di Cortés, di Piazza Tiananmen, di Waterloo, noi, quelli di Echelon, quelli che sanno tutto, tutto vedono, tutto tengono, nulla mollano, noi sempiterni, supremi, superumani, noi che filiamo il destino degli uomini come le parche latine, le moire greche, le streghe di Macbeth. Mi dispiace, Trump, la battaglia è vinta e perduta. Mi fermo. Ho corso troppo. Non lo so, forse mi fermo perché mi è venuto un altro sospetto, e questo è ancora più amaro, ancora più insopportabile. Il sospetto che noi cerchiamo un filo dietro tutti gli eventi del mondo, un filo che leghi anche perversamente noi, un filo, perché ci sentiamo perduti all'idea che questa palla di fango dove viviamo sia mossa soltanto dal caso, o ancora peggio, dal suo anagramma, il caos.